Swear I'm a dream, yes, forever will be.

chance but we'll only have better. We'll jump in brothers, we'll break fast and bad. We'll jump in animals, we'll show love to play. We'll always have the leaders, we'll fresh bread of course. We'll never be the other kind. Our singles don't know we have, but they're admitting that they need a goal. We're the making of a Oh, se domani io non potessi rivedere te. Mettiamo il caso che tu ti sentissi stanco di me. Quello che basta alla tragedia non dominerà nemmeno l'ombra della perduta felicità. E se domani sotto le nozze all'improvviso assoluta, e c'è stato un po' di confusione nelle parti probabilmente, e questa invece era in do che è una tonalità da uomo, quindi non ce la posso fare per cui abbiamo deciso di cambiare brano. Restiamo con lo stesso autore, se no facciamo disordinato. Ok, restiamo con Giovima, e sempre una bossa famosissima. Cerco di cantarla in portoghese perché è giusto che la sonorità sia quella originale, e è Desafinato. Abbiamo anche Milita Sabbi, appena riprendiamo la parte giusta poi facciamo anche Milita Sabbi. Adesso vi racconto una cosa. Allora, in febbraio mi hanno chiamato per inaugurare una mostra di un fotografo brasiliano. Ho telefonato a Nicoletto e ho detto: Nicoletto, dobbiamo fare una roba per un brasiliano del Nord-Est che fa delle foto. Te la senti di cantare in portoghese? E lei ha detto: ci provo, tiro giù la pronuncia, vedo un po' i testi e facciamo questa serata a casa Cile. Finisce la serata e lei era tutta preoccupata, diceva: sono caricato di corso tempo. Sabino Scampo, però, è venuto a complimentarsi alla fine e gli ha detto con lei: ma tu sei fatta da Ira perché la pronuncia italiana. Dovete sapere che il cantante di Giovim era Joao Gilberto, proprio di Belgio, per cui ha talmente tirato giù nel testo che sembrava una baiana. Se você não sabe que eu desafio Fotografamos

Thank you. Thank you.

del arco del tantra, io di una notte, io li posso sentire, quando la cosa mi passa e mi va, quando è il momento e dopo si vedrà. Per crearli e vi salutiamo con